nell'intercapedine di una sfera. Vedo visi d'angelo e terribili creature. Dentro l'anticamera un soffio contro luce. Solo due colori ad invadere lo spazio.